Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Una delle industrie più energivore del pianeta è quella edile. Il motivo è semplice: tutto in campo edile è pesante, massiccio e viene usato in enormi quantità. È un settore nel quale l'unità di misura è il migliaio di tonnellate. Acciaio, cemento, laterizi vari, tutti richiedono di essere prodotti. Attenzione, parliamo di fonderie, parliamo di fornaci e di quant'altro più energeticamente vorace potete immaginare, e tutti questi materiali devono anche essere trasportati. Ecco perché quando intervengono processi o materiali più efficienti in questo settore, i risultati in termini di bolletta energetica si vedono, sono davvero evidenti. È il caso del tema di cui ci occupiamo oggi qui a Mr. Kilowatt, che ha per protagonista il basalto. Il basalto è una roccia impermeabile di origine vulcanica che si forma quando il magma si raffredda rapidamente, che infatti è il principale costituente della crosta oceanica. Parliamo insomma di una delle rocce più abbondanti sul pianeta. Il bello è che questo basalto può essere filato come un tessuto e utilizzato per produrre un po' di tutto, soprattutto se parliamo del settore edile. Diamo ora il benvenuto all'ingegner Piero De Fazio, responsabile del progetto Basalto nel laboratorio Tecnologia dei Materiali e Metrologia della Trisaia, che è una struttura Enea. Buonasera De Fazio. Buonasera a voi. Allora, che cosa possiamo ricavare da questa fibra di basalto? In ambito edilizio la fibra di basalto consente la produzione di una serie di materiali, si va dal tondino in fibra di basalto ai tessuti che vengono utilizzati come rinforzo, alla fibra di basalto che può essere utilizzata come rinforzo strutturale all'interno dei conglomerati cementizi, ai chopped che possono essere utilizzati a loro volta anche all'interno dell'asfalto. Insomma, quello che viene utilizzato normalmente per fare le armature del calcestruzzo armato. Sì, come i tondini. Come i tondini, ecco, che hanno tutta una serie di vantaggi anche rispetto al tondino tradizionale, nel senso che utilizzando le proprietà che sono consone alla fibra di basalto, quindi resistenza alle alte temperature, resistenza alle sollecitazioni meccaniche, resistenza agli attacchi corrosivi in generale, possono sostituire di fatto in gran parte il tondino tradizionale, certo, consentendo guadagni in termini innanzitutto di leggerezza della struttura, sì, perché il tondino di fibra di basalto è molto più leggero rispetto a un tondino di analoga sezione in materiale tradizionale, sì, in acciaio. Ma quanto più leggero? È, diciamo, il rapporto di 1 a 2, quindi circa la metà. Consente anche, per esempio, in ambienti marini dove è molto forte l'attacco corrosivo certo, e di resistere a questi attacchi, e quindi diminuisce notevolmente i tempi di manutenzione, diminuisce notevolmente eventuali danni alle strutture provocati dai fenomeni corrosivi. Sì, da infiltrazioni e quant'altro, no? Esatto. Ecco, tra l'altro si può utilizzare non solo in campo edile, anche se su questo vorrei fare veramente solo un flash. Intrecciato come una maglia, diciamo, può sostituire tutti quei materiali che finiscono nei materiali compositi, no? Esatto. Può essere utilizzato anche come rinforzo di materiali compositi. Per cui barche, carrozzerie. In ambito nautico, in ambito dell'automotive, anche per strutture particolari, per esempio ci sono industrie che realizzano sci, che stanno cominciando a progettare sci interamente realizzati in fibra di basalto. Poi veniamo all'aspetto che forse interessa di più a Mr. Kilowatt, perché questo materiale viene prodotto con un dispendio di energia molto inferiore a quello dell'acciaio. Molto limitato, da un punto di vista produttivo la roccia viene fusa a una temperatura molto, molto elevata, superiore ai 1000 gradi centigradi, e quindi la parte fusa viene poi filata attraverso delle filiere in rodine e platino. Ma la cosa importante è che rispetto a un'analoga quantità di acciaio prodotto, considerando per esempio un 5% dell'acciaio utilizzato normalmente in edilizia nell'anno lavorativo, il risparmio che si avrebbe in termini energetici è di circa è pari a quello di una centrale elettrica da 500 MW attiva per 8.000 ore annue. Ecco, allora proviamo a focalizzarci un attimo su questo dato. Lei sta dicendo che se noi sostituissimo il 5% dell'acciaio che usiamo nelle armature del calcestruzzo armato con la fibra di basalto, esalto risparmieremmo 500 megawatt 8.000 ore all'anno. Che cos'è questo 500 megawatt 8.000 ore all'anno? Più o meno è la produzione di energia di mezza centrale nucleare, col 5%. Quindi se facciamo il 100%, vengono 10 centrali nucleari, che più o meno è il programma nucleare italiano, o sbaglio? All'incirca, sì, all'incirca. Naturalmente sono valori approssimati, però l'ordine di grandezza è questo. Quindi un impatto gigantesco dal punto di vista energetico. Ci sono applicazioni concrete in giro per il mondo, da qualche parte, del basalto in campo edile? Allora, le applicazioni principali sono in Estremo Oriente, dove il materiale è conosciuto e da dove arrivano le conoscenze sul materiale stesso, essenzialmente in Cina e in Giappone. Le applicazioni sono relative in ambito edile al rinforzo strutturale, naturalmente, sia del costruito attraverso i tessuti utilizzati come rinforzo di travi e pilastri, e in questo senso ci sono anche delle sperimentazioni in Giappone mirate alla protezione antisismica, sì, del costruito, sì, certo. Ma anche rispetto al nuovo. Esistono diversi tipi di applicazioni in ambito edile dove i tondini già in fibra di basalto vengono utilizzati. Senta, ma perché in Italia e in Europa non lo utilizziamo questo materiale? Innanzitutto perché non era molto conosciuto, non è ancora molto conosciuto, perché è lavorato e conosciuto nelle repubbliche dell'ex Unione Sovietica, quindi Ucraina e Georgia particolarmente, ed era utilizzato essenzialmente in ambito militare. Ah, quindi d'accordo, quindi l'hanno anche tenuto un po' nascosto, insomma. Sì, avendo le case a disposizione, diciamo, hanno investito su questo materiale rispetto agli americani che hanno investito sull'acciaio. Questo da un punto di vista, diciamo, militare. Grazie De Fazio. Grazie a voi. È tutto, a domani.